Un giorno decisero di chiamarmi Baba. Da quel giorno quel soprannome mi divertì perché a tutti piaceva. Poi 20 anni dopo scopro che Baba è un cornetto a Lecce pieno di liquore. Ultra mega trama ventennale.